sì, semplicemente insieme. Buon pomeriggio e bentrovati. Siete rigorosamente in diretta su CRM P Radio all'interno di Semplicemente Insieme, appunto, insieme a me e insieme al nostro Alessandro. Carissima Geri, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di CRM P Radio. Finalmente adesso siamo insieme, non sarò più da sola, quindi Alessandro mi terrà e ci terrà compagnia per un po'. Senz'altro, per molto tempo, spero, sì. Magari diventare una coppia fissa del programma Semplicemente Insieme, chi lo sa, vediamo. Vedremo cosa succede. Vedremo cosa succederà. Sì, ricordiamo i numeri, Alex. Ricordiamo i numeri, che potete inviarci gli sms al 335 56 37 251 o telefonare allo 0921 92 32 92 o seguirci su Facebook sulla pagina CRM P Radio e diventare nostri amici e soprattutto mettere mi piace. Esatto, mi piace. Ancora il nostro sito dove possono seguirci in diretta streaming al www.crmepiradio.it. Brava, quindi Diana. Da dove mandare messaggi, le dediche, le richieste, un tutto saluto, tutto quello che vogliono i nostri amici. Esatto, quello che vi pare. Che dici, Alex? Noi cominciamo con la musica. Avanti con Daft Punk, Lucky. E andiamo allora, ancora buon pomeriggio! Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. diretta su CRM Happy Radio, semplicemente insieme, con Geraldina Turdo. Vieni a galla nei ricordi, nel mezzo dell'oceano, spunti come un ramo secco, nel verde immenso a maggio, nelle cose che ho preso e che ho cambiato, ci sei e ci resterai. Un ti amo salvato andrebbe invece sempre cancellato, così come il tuo bel nome che ancora suona forte, via regali, via dettagli, cornici solo vuote. Se bastasse davvero tutto questo, sarebbe tutto a posto, ma ho paura che a questo giro invece dimenticarti è poco. Dimenticarti sarà per l'altra vita, questa è già piena di corsi e di ricorsi, di capelli tuoi tanti che ho raccolto in casa e per la strada, di promesse che ho mantenuto solo quando era troppo tardi. La tua voce è un suono lungo come una nave in porto, l'espressione del tuo volto è chiara ma non troppo. Questa lunga convalescenza spero mi renderà più forte, ma se adesso qualcosa mi toccasse troverebbe il vuoto. Dimenticarti è poco e non ha senso, niente mi sposta dal punto che mi hai dato, sono troppe le cose a cui di colpo hai tolto luce e fiato, sono pezzi di vita che a fatica avevo costruito. Grazie di tutto, eternamente grazie, meglio aver male che essere un fantasma. Grazie per i tuoi giorni giovani che a me hai dedicato. E parliamo proprio di Biagio Antonacci, caro Alex, che presto, pensa, si esibirà per la prima volta in America, a New York, sulle note dell'ultimo album Sapessi Dire No. E a Vanity Fair il cantante confessa che, pensa, che trova naturale che gli ultra cinquantenni lascino la famiglia per donne più giovani. E riguardo al matrimonio dice: un atto di fede più che d'amore, ma credo che prima o poi lo farò. Biagio, diciamo che nelle canzoni colpisce per il suo romanticismo, e lo sappiamo, anche la canzone che abbiamo appena ascoltato lo dice. Nella vita ha una fidanzata molto più giovane di lui. E quando gli chiedono se sia entrato nella crisi di mezz'età, lui risponde: se parliamo di ultra cinquantenni che lasciano una famiglia per una donna più giovane e magari fanno altri figli a costo di essere impopolare, dico che lo trovo naturale. Nell'uomo c'è l'istinto genetico della conquista e la fertilità è un modo per sentirsi giovani, virili. Le donne, ancora continua il cantante, dice che sono superiori da tutti i punti di vista, e lì ha ragione, non devono drammatizzare, e quindi consiglia di lasciarli fare e se poi tornano di riprenderli, anche perché questa seconda vita in 90 casi su 100 è solo un'illusione d'amore. Diciamo che forse è per questo che lui ancora non ha convolato a giuste nozze. Che dici, Alex? Cioè, io comunque Biagio Antonacci è un gran marpione, devo dire. Lui è sempre avuto lui ha avuto sempre un amore comunque per le donne. Diciamo che la figura femminile per lui vale molto. Vale anche molto la madre, in effetti qua sì, ha un buon rapporto con la mamma. Sì, ha un buon rapporto con la madre. Antonacci dice: resta un riferimento importante nella mia vita, è la persona che chiama subito dopo quando finisce un'esibizione per sapere com'è andata e cosa ne pensa la madre. Biagio ha già posato senza veli per Vanity Fair, ma adesso non è certo che lo rifarebbe. Sì, ho visto in passato, è stato fatto proprio da modello, devo dire che merita. Beh, sì, un bell'uomo, assolutamente. Bell'uomo, però non sono d'accordo sul suo fatto che gli uomini a 50 anni lasciano la famiglia e vadano poi alla conquista di giovani donne. Ma devi sapere. E che sapere. Poi tra l'altro le donne le fa la famiglia, debba riprenderselo. Beh, su questo non sono d'accordo. Neanche io, devo dire, neanche io sono tanto d'accordo, perché proprio, cioè, è un po' strana come cosa. Cioè, se hai già una famiglia, è inutile che te ne vai a prendere un'altra. Sai cosa? È la crisi di mezz'età, che arrivate a quell'età lì, no? Ci si sente un po' così giù. Sì. Allora, per sentirsi, per tirarsi un po' su, si va alla ricerca di giovani donne che comunque li facciano sentire così, certo, belli, un po' belli, virili, eccetera. Che a loro piace, ma anche alle donne, devo dire, perché non, cioè, a parte adesso parlare solo delle, ma anche le donne vedo che comunque piacciono anche gli ometti più giovani, anche queste 45enni o 50enni che comunque riscoprono, diciamo, questa giovinezza. C'è un po' troppa differenza di età, secondo me. Sì, secondo me sì, però poi là c'è, diciamo, che il fattore età non conta più, è poi relativo, diventa però. Certo, ma penso che sia una cosa naturale, secondo me. Beh, sì, poi ognuno, l'importante è che si è contenti, che devo dire. Certo. Ognuno fa della propria vita quello che vuole. Ma però, se ti sente. Io non sono tanto d'accordo con il mio carissimo Biagio, questa volta no. Sento questa canzone bellissima di Sting, Desert Rose, e la dedichiamo a tutti gli amici di CRM. Certo, ricordiamo che noi staremo insieme a voi sino alle 17, sempre con tanta buona musica, notizie, curiosità e tanto, tanto altro. Oggi il sole splende alto nel cielo, finalmente, piano, stiamo arrivando all'estate, sì, si spera. Sì, sì. E allora andiamo avanti con Sting, Desert Rose. Wow. bella questa canzone di Sting. Direi molto. Grande e bella. Gran bella canzone. Poi diciamo, lui è un bravo artista. Direi. Dopo 10 anni pensa che Sting torna con un album di inediti, una nuova raccolta legata anche a un musical, The Last Ship, ambientato in un cantiere navale in Inghilterra negli anni di Margaret Thatcher, che uscirà il 24 settembre. Ad annunciarlo è il New York Times. L'ex cantante dei Police sta lavorando da 3 anni a brani musicali che lo vede in stretta collaborazione con John Logan, lo sceneggiatore di Skyfall. L'album inoltre includerà alcune canzoni dallo spettacolo, compresa quella che dà il titolo alla raccolta, un brano a ritmo di valzer con immagini cristiane nel dialetto del nord dell'Inghilterra. E ancora un altro brano è And Yet, che racconta di un marinaio che torna a casa chiedendosi se la donna che ha lasciato quando è andato per mare sia ancora lì per lui, mentre Dead Man's Boots è il dialogo ad alta tensione tra un padre che lavora al cantiere e un figlio che vuol far qualcosa d'altro nella vita. Album e musical, che appunto che debutterà nel 2014, sono ambientati a Wall's End, non lontano da Newcastle, la città in cui il cantante è nato 61 anni fa. Cioè, chi 61 anni fa, hai visto come si riporta benissimo? Certo, ma perché lui fa anche molta yoga. Sì, cioè, un bell'uomo ancora, un bell'ometto tuttora. Sì, anche un gran fisico, devo dire. Sì, infatti, bene, bravo, bravo. Poi cosa possiamo dire? Che uno che Sting è uno dei migliori cantautori rock della sua generazione. Sting ha collezionato, come sappiamo bene, 17 Grammy per canzoni come Every Breath You Take, Don't Stand Con Too Close so To close. Me. Queste è Brand New Day. Si è ingarbugliata un po'. Un pochettino. Ma negli ultimi tempi sembrava entrato in una pausa creativa dopo che Sacred Love nel 2003 era un'uscita compilation di vecchi successi, un album di musica rinascimentale per liuto, un LP musicale natalizi e un album sinfonico con arrangiamenti orchestrali di precedenti composizioni. Però intanto Sting è in tournée, questo lo diciamo, che anche in tournée in Italia quest'anno. Wow. È atteso all'Arena di Verona l'8 luglio e il 9 luglio e al Foro Italico di Roma anche. Quindi per tutti i fan. Per tutti i fan di... Io, cavolo, se avessi la possibilità, cioè, lo andrei a vedere molto volentieri. Quindi l'8 e il 9 luglio. L'8 a Verona e il 9 al Foro Italico di Roma. Quindi per tutti gli appassionati fan di Sting potete andarlo a vedere, a sentire, ad ascoltare. Sì, sì, sì. Che poi oltre a essere un grande cantante è pure un bravissimo bassista, perché è uno dei pochi, cioè, come che cantano e suonano il basso. È molto difficile come coordinazione. Tu suoni qualche strumento? Io suono la chitarra. Ecco, sì. Perché vedi, ho visto proprio dai tuoi occhi, da come ne parlavi, che no, sei un appassionato anche tu di... Sì, sì, Sting è molto bravo per questo, sì, sì. Bello, è anche un bell'ometto, devo dire, a 61 anni. Beh, se li porta bene. Se li porta bene, ancora sicuramente ha uno stuolo di donzelle che gli corrono dietro. E noi continuiamo sempre su CRM Happy Radio con Eros Ramazzotti, fino all'estasi. Occhi mi incateni qui, mi lasci andare tanto sai che puoi riprendermi. Bring me back to life when you

Il 335. Ah, il 335 56 37 251. Scusate, ma mi ero un pochettino perso. Ti sei distratto? Ma cosa, distratto. Cosa stavi pensando, sì, Alex? Non lo so, mi era venuta a questa canzone. Forse mi ha fatto ricordare. Ti ricordava qualcosina. Sì, sì, sì. E poi magari ce lo racconti dopo. Abbiamo una chicca su Lady Gaga, penso un po'. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises, check this hand cause I'm marvelous. Lady Gaga, Lady Gaga, già, con Poker Face. Su questa canzone saluto Marcella. Ciao Marcella. Ciao Marcella. Che ce l'ha richiesta. Bella. Sai che Lady canzone. Gaga è un po' così particolare, un po' strana, sì, diciamo. È un po' particolare, no? Abbastanza particolare. Pensa che tutto quello che tocca Lady Gaga si trasforma in oro, così si dice. Perché un fan, un po' folle devo dire, ha speso una cifra di $12,000 per accaparrarsi un'unghia finta, caspita, della star. Caspita, $12,000. La mamma poco. Mostra, cioè la nostra Lady Gaga, praticamente ha perso questo cimelio, questa unghietta, durante un concerto, e uno spettatore in prima fila l'aveva prontamente recuperato. Pensava fosse il plettro di una chitarra, in realtà si è accorse che era proprio l'unghia finta della popstar. Il pacchetto venduto, insomma, include, oltre al cimelio, quindi oltre a questa bella l'unghietta, una foto di Lady Gaga alla presentazione del profumo e un'altra di lei con l'unghia mancante durante il concerto. E il venditore ha poi incluso un manuale materiale personale del concerto, un braccialetto dello show, una t-shirt del tour e una lettera che spiega come è venuta in possesso dell'accessorio. Il prezioso ornamento, diciamo, è stato disegnato dalla nail artist newyorkese Aya Fukada e ha fatto il suo debutto quindi sulle dita della mamma mostra, così viene chiamata, a Londra la scorsa estate in occasione del lancio quindi del profumo di Lady Gaga Fame. Penso un po' un fan cosa riesce a... Cioè impazzito, $12,000 per, mamma mia, per l'unghia. Vuol dire che aveva, vuol dire che aveva i soldi, cioè, se ma li poteva pure spendere. Finta era sta unghia. Che ci possiamo fare? Cioè fosse stata vera. Sì, sì, sì. Ma manco pure, posso capirlo? No, perché voglio dire. Certo, certo, certo. Comunque Lady Gaga è sempre grandissima artista, una che sul palcoscenico fa è molto. Un animale da palcoscenico, esattissima, diciamolo pure. Esattissima. Poi questa canzone mi faceva ricordare un po', prima ti dicevo che mi faceva ricordare un pochettino le serate catanesi quando stavo sì, a Catania. Ho visto che ti eri distratto. Sì, sì, mi era venuto, me ne era andato un po' in screensaver così. Sì, sì, mi ricordavo un po' di serate, di amici, che saluto, forse ce n'è uno forse che ci sta ascoltando da Catania, ciao Peppe, ti saluto. Ciao Peppe, lo saluto anch'io, da Catania, tu quindi sì, stai, sì. Bazzicavi zona A, zona sì, Catania? Sì, sì, sì, ho lavoricchiato per là, sono stato là un anno e mezzo, una bella città, bella da vivere, belle persone anche, mi sono trovato molto bene, una bene, bella esperienza. Salutiamo allora tutta Catania, ciao. Diciamo così. Ciao Catania. Ciao Catania. Io sono stata a Catania pure così per qualche... Sei grande Vasco qua, Vasco. Abbiamo pure l'imitatore di Vasco, cioè voi non lo sapete, ma Alessandro fa pure l'imitatore, magari dopo ci farà qualche imitazione. Ah, poi vedremo. Sì, dai, è qualcosina, devi pure farla. Comunque, Vasco Rossi, bollicine, che poi a proposito di bollicine... Ne parliamo ne dopo. Parleremo. Ok. Pubblicità. Spazio pubblicità. Coca, Coca, Coca, Coca. più e mangia le pere. Tutte quelle medicine. Io la Coca-Cola me la porto a scuola. Coca-Cola qui, Coca-Cola, Coca a casa e chiesa. Scuola. Coca-Cola, e sei protagonista. Coca-Cola, per l'uomo che non deve chiedere mai. Con tutte quelle bollicine. Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola, e sai cosa devi? Ma quanto è bella questa canzone! Quanto è bella sta Coca-Cola! Sì, lui dice bevete, bevete Coca-Cola che fa bene. Sì, sì. In realtà sì, non sì, fa sì. così bene, comunque. Beh, certo, certo, non fa bene, però rende allegri. Con tutte le bollicine. Con tutte quelle bollicine, proprio come diceva, con tutte le bollicine. Ecco che è uscito fuori il nostro Vasco Rossi qua dei CRMP Radio. Ma comunque, comunque, la Coca-Cola, a parte, a proposito di Coca-Cola, ha ideato un curioso e simpatico scherzo ai visitatori di un parco di Shanghai in Cina. Sì. Ha riempito un distributore automatico di bottiglie col tappo stretto, con una forza ben superiore al normale. Cosa hanno voluto fare con questa cosa? Con questo semplice accorgimento l'idea è quella di favorire la nascita di nuove amicizie. Gli ignari acquirenti delle bottiglie, in particolar modo le donne, si trovano in difficoltà ad aprire la bottiglia e sono costrette a chiedere l'aiuto di un passante, o magari un passante premuroso si offre spontaneamente. Una cosa molto carina, devo dire. E ci credo, una, ad aprire la bottiglia tre ore non riesci, ovviamente devi chiedere l'aiuto a qualcuno. Sarà un nuovo modo di abordare le ragazze questo. Questa è una notizia al solito che arriva dalla Coca-Cola Shanghai, visitatori in un parco di Shanghai. Sì, sì, sì, sì, sì, sono proprio divertiti quelli della Coca-Cola a fare sti scherzetti. Così acchiappano, l'acchiappo facile, la conquista, ma, diciamo. Magari funziona, chi lo sa. Con la scusa di aprire la bottiglia, poi si chiede il numero, ciao, che ciao, fai, facciamo due passi. Qua, ci beviamo un po' di Coca-Cola assieme. Ecco, e quindi si fanno così, si fa conoscenza, si fanno le amicizie. No, però è una bella idea, dai, devo bella dire. Idea, bella idea. La Coca-Cola è sempre molto fantasiosa su queste cose. Esatto, dai. Voglio. Continuiamo noi Continuiamo con la bella musica. Con Armin Van Buren. Chi è questo tizio? È un cantante, chi è, scusami. Ha un nome strano. E allora andiamo ad ascoltare sempre It's Feeling Like CRM Piredi. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. Like watching down. This is what it feels like. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda senza parlare, azzurro come te, come il cielo è il mare, e giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Bellissima canzone De Modà, saluto Maria che in questo momento sta viaggiando con la sua macchinina e ritorna a casa. Un bacione grande, Maria. Ciao ciao e fai la brava. CRM Notizie. Buon pomeriggio. Violenza incomprensibile, così il sindaco di Terni di Girolamo, rimasto ferito dalle cariche della polizia contro gli operai delle acciaierie ex Thyssen che tentavano di occupare pacificamente i binari della stazione. Il capo dell'ufficio centrale ispettivo della polizia ha chiesto al questore una relazione dettagliata. Difendere a tutti i costi l'industria manifatturiera con il motore rotto, mancheremo la ripresa. L'allarme del presidente di Confindustria Squinzi, commentando i dati diffusi oggi dal centro studi di Viale dell'Astronomia. In 4 anni, chiuse 55.000 imprese, persi 540.000 posti di lavoro. E la crisi di liquidità in cui versano le imprese italiane, certificata anche da Standard & Poor's, negati 44 miliardi di euro di prestiti bancari, evidenzia l'agenzia che ipotizza entro l'anno un nuovo taglio di rating. rating per l'Italia. Una crisi epocale, in 5 anni i giornali hanno perso oltre 1 milione di copie, così il presidente della FIEG Anselmi presentando il rapporto 2010-2012 sulla stampa in Italia. La politica è latitante, ha aggiunto, bisogna spostare l'intervento pubblico dai contributi agli incentivi. Condanne dai 40 giorni ai 2 mesi di reclusione per 6 tifosi della Pro Patria in relazione ai cori razzisti contro alcuni giocatori del Milan nell'amichevole del 3 gennaio. Il tribunale di Busto Arsizio li ha riconosciuti colpevoli di ingiuria aggravata dai motivi razziali. Non cessa l'emergenza a maltempo in Germania, il livello dell'Elba sale in Sassonia, centinaia le evacuazioni a Dresda. Preoccupa a Halle la piena del Sale che ha raggiunto gli 8 metri, il record degli ultimi 400 anni. E per ora è tutto, a più tardi. CRM. CRM. Si sente e si vede. Il tuo pomeriggio su CRM di Radio è semplicemente insieme. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. I list trips around the world. Don't mean a thing if I ain't your girl. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Chit chat of the things I got, and my stout reputation of keeping it hot. I'm the party of the year, and my master plan is to make you realize I'm your man. Give the people get lost underneath the moonlight. Hot, they top, they paparazzi. Who they wanna take this flick? Speak easy, rocking the feathers, I'm breezy. Hope you can keep up, boys. Believe me, I'm the beast. It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart. No. It don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly. No, it don't mean a thing if I give you my heart. If you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly. No, Rock, are you ready? A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Let's go! A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Oh! A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ognuno ha un peso da portare con sé, non dirmi che tu non lo sai. Ma più ci pensi e più succede. la stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi, poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai. Ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine, se è quello che vuoi, se è quello che vuoi. Ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Quando sorridi, Neffa, sorridi, sorridere sì, sempre. Sempre. Su questa canzone saluto Fabiana che ce l'ha richiesta, ricordiamo ancora una volta, dal nostro sito che è il www.crmhappyradio.it. Ciao Fabiana. Ciao Fabiana, 16 e 21, siamo ancora insieme a voi fino alle 17 fino a tenervi 17. Compagnia con la nostra bella musica, le nostre notizie, le curiosità. E soprattutto le news. E oggi ti ricordo, cara mia Geri, che sì, dimmi tutto. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Ed è contro gli sprechi e degrado del pianeta. Questo è molto importante saperlo, perché purtroppo il nostro pianeta viene di continuo depredato di tutte le sue bellezze, diciamo, dai boschi a tutto comunque. E poi però la parola che di questa giornata mondiale sull'ambiente è proprio pensa, mangia e risparmia, il motto di quest'anno della giornata mondiale sull'ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno dal 1972, quando venne proclamata festività nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, l'UNEP, la produzione alimentare globale, è responsabile del 70% del consumo di acqua dolce e nell'80% della deforestazione, oltre a creare almeno 30% delle emissioni globali di gas ed effetto serra. Purtroppo speriamo che le cose si mettano meglio, che le persone siano più consapevoli e tengano il pianeta più pulito. Mi raccomando, rispettiamo l'ambiente in cui viviamo, sempre, perché ci sempre. Viviamo, insomma. Quindi dobbiamo maggiore rispetto. Sennò poi la natura si ribella. Si rivolta contro, Sì. Rispettiamo sempre il nostro ambiente e teniamo pulito sempre. Soprattutto mi raccomando. Perché io vedo, sai, un po' in giro, no? Dei ragazzini già piccoli che mangiano il gelato, buttano le carte per strada, cioè è un problema. Cerchiamo è un problema. Di mantenere, insomma, nel nostro piccolo pulito il nostro ambiente e soprattutto anche la nostra città Cefalù, che purtroppo certe volte la vedo un po' così vabbè. Sporchina, però va. Diciamo che ognuno di noi dovrebbe fare il proprio. Dobbiamo fare, sì, certo, dobbiamo metterci di buon impegno e tenere pulito le nostre strade. Mi raccomando, eh. Sì, sì, so. E andiamo avanti noi, sempre con la musica su CRM e P-Radio. Con Elaida Dani, che è stata la vincitrice del talent show, lo ricordiamo, di su Rai 2, sì, sì. The Voice. Andiamola ad ascoltare. Ok. Can I hear you when it calls your name, or we can fly away? You gotta catch it any way you can, better not delay. Got to go where love goes in your life, and in that moment of goodbye, the strongest of chains will just fall away, and life before will be no more. Your name, your children's cries can change your mind. You live for now, the past behind. It's passion that you fight in vain when love calls your name. Love, you gotta hear it when it calls your name, or we can fly away. You gotta catch it any way you can, follow. And in the moment of goodbye, the strongest of chains will just fall away. There's no more tears and no more fears when love calls your name. No memories to hold you back, no promises to keep you trapped. It's passion that you can't explain when love calls your name. Insieme a voi è Laida Dani, la vincitrice del talent show appunto di The Voice. Sulla prossima canzone io volevo fare gli auguri alla mia mamma, che oggi compie gli anni. Auguri mamma. Auguri signora. Ti voglio tanto bene. Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te. Se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria. Entrare nei tuoi occhi, solo nell'anima. Yeah. sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a cura di splendere. Ti voglio tanto bene e niente finirà se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te, mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io canterò. E questa canzone di Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene, ancora una volta la dedico alla mia mamma che oggi compie gli anni. Ancora tanti auguroni alla tua carissima mamma. Tanti auguri mamma, questa sera mangiamo la torta. Dai, ci vuole, domani me ne porti una fetta però. Tranquillo, te la porto, la conservo e te la porto, dai, va bene? Va bene, me la mangerò. Allora, 16.30, siete ancora in diretta insieme a noi, insieme a Jerry, insieme ad Alex. Ricordiamo ancora una volta i numeri per chi volesse interagire con certo, noi. Certo, gli sms al 335 56 37 251 o telefonatelo 0921 92 32 92 o mi sono perso, vabbè. Tranquillo. Ci potete trovare anche su Facebook, volevo dire, alla pagina CRM Happy Radio, mettete mi piace. E ricordiamo che comunque siamo in diretta poi quest'estate nelle spiagge di Cefalù. Sì, a partire da luglio trasmetteremo in diretta dai lidi più belli, insomma, della provincia di Palermo. Quindi vi terremo compagnia quest'estate sempre con la nostra bella musica. Certo. Con le mie papere, con le nostre papere. E con le nostre papere, che ci vogliono tanto. Il bello della diretta è proprio sì, che fanno quello, bene, che fanno bene alla salute. Sì, sì. Che dici, continuiamo un po' con la nostra musica? Sì, andiamo avanti con John Newman. Love me again, giusto? Oh yes, bravo. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength I there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me. Destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength. We'll be right back. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. M'hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era c'è. Stamani amore pensando a te, il primo fiore mi ha detto che l'inverno ormai se ne va, ma tu rimani con me. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Cosa hai messo nel caffè, Alex? Io tu invece? Sa. La nostra Malika ha messo un po' di zucchero, anche, sai cosa? Un po' di veleno, sai? Un po' di veleno, ma perché il veleno? Farebbe bene a qualcuno. Sai perché dico questo? Perché ho letto una notizia, una ragazza praticamente, è stata tradita via Facebook. E te pareva sto Facebook? Cioè via Facebook, l'ha scoperto via Facebook praticamente, quindi sicuramente lei avrebbe voluto mettere un po' di veleno. Praticamente ecco cosa succede se lasciamo aperto il nostro profilo Facebook e abbiamo qualcosa da nascondere. Una ragazza praticamente ha scoperto che il ragazzo la stava tradendo e ha deciso di vendicarsi, però in un modo veramente originale. Ha nascosto gli oggetti personali del fidanzato e poi gli ha scritto una bella letterina con una dettagliata caccia al tesoro per ritrovarli. Ma guarda te. Quindi tesorino, se vuoi le tue cose fai così. Adesso ti vado a leggere cosa dice. Va bene, la ragazza, sono curioso proprio di sentirla. Lei dice: ciao tesorino, indovina chi ha lasciato Facebook aperto sul proprio computer e ha ricevuto un messaggio da una certa Kelsey? Beh, sì, proprio tu. Ma non ti preoccupare, non ho rotto niente. Anzi, sono stata così dolce da impacchettarti le tue cose. Ho anche inventato un gioco divertente, visto che da quando ti conosco so che ti piace cercare le cose e le altre ragazze. Ecco dove troverai le tue. I tuoi vestiti, per esempio, sono dove ci siamo incontrati la prima volta. I tuoi videogiochi, dove ci siamo dati il primo bacio. Il tuo laptop è dove abbiamo comprato il primo videogame insieme. La tua TV, invece, è dove l'abbiamo fatto la prima volta. Tutto il resto, compreso le foto degli ultimi 2 anni della nostra vita insieme, sono a casa di questa certa, di questa Kelsey. Quindi, divertiti. Ah, PS, non ho rotto o danneggiato nulla, ma non posso garantirti che tu possa ritrovare le tue cose. Buona ricerca. Perciò, pensa un po' a questa ragazza, come se ne è uscita bella pulita pulita. Una grande, brava, si fa così, hai visto? Ha evitato di fare scene, rompergli le cose in testa, perché se lo meriterebbe. Invece lei, hai visto, ha nascosto gli oggetti. Gli ha nascosto tutte cose, gli ha detto, ora vattene a prendere. Chissà adesso se lui... se lui è riuscito a recuperare tutte le cose che aveva lasciato. Perché di solito, sai, i maschietti non si ricordano mai dove è successo, che sia il primo bacio, il primo incontro. Sì. Pensano a poco a quello, è vero. Adesso arrangiati, come si suol dire. Mizia sta ragazza, però. Brava la nostra amica. Sì, molto originale. Brava, brava. Intanto volevo salutare Peppe, che in questo momento ci sta seguendo. Ciao Peppe. Ciao Peppino. Bravo, continua a seguirci, mi raccomando. Ci manda i messaggi dal nostro sito, che ricordiamo è www.crmepiradio. Esattissimamente. 16:45, ancora qualche... Sì, abbiamo un quarto d'ora qua sempre assieme. Da trascorrere insieme. Sempre. Insieme a noi con la nostra bella musica. Che abbiamo adesso? Noi continuiamo, naturalmente. Con no? Hola, I'm in love. Love. Devo farmi proprio un corso di inglese, perché esatto. Sono negato. She had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday, rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Wish I was not, but I'm in love, I'm in love. Ancora qui insieme a voi. Eh sì, siamo sempre insieme qui. Quindi su CRM. Dicevamo, caro Alex, che devi fare un po'... Sì, devo, cavolo, migliorare un pochettino il mio inglese, soprattutto nelle pronunce, perché ho un pochettino di problemi. Ma vabbè, dai, tranquillo. Mi impegnerò su questo. Ma intanto volevo dare una notiziella a tutti i nostri amici amanti degli animali, ma soprattutto a quelli che amano i gatti, perché stavo sbirciando una notizia e ho beccato questa notizia che hanno inventato un software che traduce il linguaggio dei gatti. Ah, capito. Addirittura, penso un po'. È una, perché però è stata una ditta americana, perché tutte queste cose strane, figure da dove possono venire se non dalla America. Però è una risposta a questa domanda. Di solito la domanda fa: ma ci capisce il nostro gatto? Questa società americana ha però sviluppato un software che, secondo i suoi autori, è in grado di tradurre il linguaggio umano in miagolì. Tipo, gli scrivi vai là e quelli fa meow e lui prende e oh, va. Mamma. Il software è disponibile anche come app per iPhone, analizza la vostra voce e la traduce nelle frasi gattesche, sfruttando 175 miagoli precampionati da questi loop. È disponibile anche una versione gratuita con un vocabolario limitato. Ma secondo te potrà mai funzionare una cosa del genere? Ma io un po' di dubbi ce li avrei. Certo, un po' di dubbi rimangono, però a me non piacerebbe sinceramente dirgli le cose, cioè mi sembrerebbe, lo lascerei com'è il gatto, ecco. Direi. Poi diventerebbe quasi troppo robotizzato, tipo, no? Tipo dici le cose, lui lo vai so, là, ma sai questo. Quante se ne inventano, hai visto? Sì, ma è una cosa veramente allucinante che non pensavo che potesse esistere. Eppure, vedi, per parlare al proprio gatto, ecco. Eppure gli americani ci hanno pensato e hanno fatto proprio questo software. Anche loro ne sanno una più del diavolo. Sti americani sono sempre più avanti. Eh sì, dai. Allora noi continuiamo. Sì, con continuiamo. La sono le 5 meno 10. 16:50. 16:50. Sì, abbiamo altri 10 minuti. Sì, con tanta bella musica. Adesso arriva lui, Giovanotti. Chi arriva? Oh, il grande Giovanotti. Ti porto via con me. Bella. Sempre non lo portiamo. Certo. E tutto sembra possibile. Mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica, in questo inizio del mondo, i nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica, posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero, lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere, ti porto via con me, in questa notte fantastica, ti porto via con me. Una cascata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova, dentro una macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori, un temporale elettronico lava la polvere dai cuori, DJ suona, musica buona, BPM 130, respira, respiro, ti porto via con me. In questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole, in questo spazio elettronico, posso toccare il cielo, ti porto via con me. Fantastica, ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Una cascata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino, donna che danza la notte, fa nascere il sole, ti sento vicino, come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta, in questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Scivola via, non resterò qui a guardare. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. I've been around the world, but never find the right girl. The one to call my sugar, the one to call my lover. I mean the right one who can love me for who I am and love for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh well, oh well, oh, oh well, oh, baby. Bella canzone di Caruso e Valenziano. Saluto Chiara. Ciao Chiaretta. Ciao Chiara, un bacione grande. Grandissimo da tutti noi. E questa era l'ultima canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme. Ricordiamo, rinnoviamo l'appuntamento insieme a noi per venerdì, sempre a partire dalle 15 fino alle 17. Sì, sì, perfettissimo. 15 circa, perché alla fine 15 puntuali mai. Vabbè, sempre, cioè, abbiamo sempre quello 10 minuti in più. Di tolleranza, sì, come si può dire. Va bene, Jerry, allora niente, ti saluto io. Ci rivediamo, ci risentiamo. Saluto anche i nostri cari ascoltatori di Radio CRM. E ci sentiremo, penso, presto, sì, venerdì. Sì, sì, dai, venerdì, dai. Allora, auguriamo un buon proseguimento con la musica di CRM Happy Radio. Un buon pomeriggio e una buona serata anche. Ovviamente. Giusto, fate. Tu che fai ora? Dove te ne vai? Vado a passeggio. A passeggio? Sì. Se ne va a fare shopping? Sì. Vado a fare un giretto, dai. Brava nostra Jerry, brava. Ok, e allora buon proseguimento e come dico sempre io, vediamo se l'hai imparato anche tu. Fate i bravi. Ok, ciao. Ciao ragazzi, alla prossima. Bacio, ciao. Un bacione, ciao. Semplicemente. Semplicemente.